Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Indovinate un po' chi sta per iniziare. Sempre nascoste da questa sigla elegantissima. If we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. E non sono sola, c'è Valeria con me. Sta per iniziare la puntata numero di Spirito di Patata. After, let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. Cioè, se non sono le fan che ci contano le puntate, noi non le sappiamo. Oggi Claudia è simpatica. Attenzione, attenzione. Sarà una puntata spumeggiante. Bene, bene. If we call the whole thing off, then we must part. And if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off. I say father and you say Peter. Che poi è una sigla tattica questa, perché dura 7 giorni e un quarto. No, è una canzone lunghissima, sì. Comunque sono successe delle cose tremende proprio. Tremende, soprattutto ci sono delle grosse problematiche, cioè grossa crisi. Oh, ma lo sapete che è successo il 12 novembre? No, il 12 novembre non ci interessa. Era il mio compleanno, pensa, vabbè, niente. Questo sì, infatti, era molto più questa interessante. Questa era la notizia del 12 novembre, no? Tutti che stavano... Io ho brindato per il mio compleanno, i miei 3x3, 9, più 8, più 6, più 5, meno 12, e poi chi 7. Sarà? Dalla padella alla brace, bisognerebbe scoprirlo. Invece il vero, triste notizia... Allora, ci sono Pedro e Buddy. Spiega chi sono. Come chi sono, Pietro? Pedro, che poi ora mi dovete spiegare come si fa a chiamare un pinguino che come minimo viene dall'Antartide. Pedro, che sembra che viene dal Messico. No, guarda che in Patagonia, per esempio, che fa parte dell'Argentina, ignorante. Se parla spagnolo, se parla. E quindi l'avranno chiamato Pedro, magari viene da là, non lo so. Insomma, sono Pedro e Buddy, che sono due pinguini. Ora, il dramma vero di questi due pinguini, per cui Repubblica ha pensato bene di farci addirittura nel questo giornale, che è veramente foriero di grandi notizie, soprattutto scritte molto bene, che come direbbe qualche regista, scritto un po' coi piedi, Nakai. Insomma, questi due pinguini, mannaggia la miseria, li vogliono separare. Separare perché? Perché? Perché loro stanno insieme. Sì. alla faccia della natura. Guarda, io vorrei tutto il clero qui schierato in tutti i suoi alti e bassi prelati con questo discorso della natura, della, che ci propinano. E invece ti dico una tu cosa, tu sei contro natura, invece cosa, la natura è com'è, incredibile. La natura è com'è, anche perché ci sono 400 specie in natura che praticano l'omosessualità, c'è solamente una specie di queste qua che le, non l'accetta. È il clero. Sì, sì. No, c'è da dire un'altra cosa sui pinguini. Che i pinguini, una volta che scoprono, cioè che trovano la loro anima gemella, la tengono per tutta la vita. Sono monogami i pinguini. Vabbè, queste sono scelte, sono. Esatto. Però pensa te quindi quanto stanno soffrendo questi pinguini, perché loro si erano scelti, Buddy e Pedro. Cioè loro volevano stare insieme. Allora, questa cosa è successa a Toronto. E c'è tutta una comunità LGBT che infatti ha preso a cuore, insomma, le vicende dei due pinguini. E comunque ci sono fior fior di anche persone, diciamo, documentate sui fatti, che dicono che questi due pinguini, se si sono scelti e vogliono stare insieme, è quello che devono fare prima che si deprimono. E sicuramente comunque l'accoppiamento ha forzato, perché pare che siano dei pinguini in via di estinzione, eccetera, eccetera, eccetera, non funzionerà. Loro, ennesima dimostrazione che appunto la natura, quando vi dicono badate bene, siete contro natura, voi rispondete: e allora Pedro e Buddy? E come loro tantissimissime altre specie animali che appunto sono gay e lesbiche, ce ne sono veramente, come diceva Valeria, 400, ne hanno contati 400. Che non sappiamo qual è il totale, però vabbè. Comunque 400 specie mi sembra più di quante siamo, ne siamo una, quindi 400 vorrei dire che insomma chissà cos'è la natura, questo strano animale, la natura. E noi ci ascoltiamo una versione veramente particolare di un classicone che è Personal Jesus, cantato però da Nina Hagen. Son of Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus, someone to hear your prayer, someone who's there. Lift up the receiver, he'll make you a believer. Jesus is the best, he'll put you through a test. Hands on your chest, you'll need to confess. He will deliver, he's a forgiver. Reach out, touch faith. Out, touch faith. He's your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. He's your own personal Jesus, someone to hear your prayers. Someone who's there. Wow. E vedi Nina Hagen, che versione scoppiettante di Personal Jesus dagli anni 80, un rock invece, diciamo, di potenza. Poi lei c'ha un vocione. Sì. Io poi mi diranno che parlo sempre delle stesse cose. Sì, ebbene sì, parlo sempre delle stesse cose perché oramai, cioè, si sa che uno degli argomenti principi, anzi uno degli argomenti principesse del, non dico principesse a caso, del, delle donne, di chi si occupa anche di comunicazione, è del corpo delle donne, di questo immaginario che viene dato. Oramai noi femministe, noi donne, noi in generale, non solo noi, ne parliamo parecchio, perché veramente il corpo delle donne è stato veramente, non lo so, veramente violentato dall'immagine. E sì, stiamo a dire sempre le stesse cose, però escono fuori ogni volta cose nuove, donne che scrivono, che vogliono rivendicare, come un post su Femminismo Sud, la propria libertà, andare in giro magari anche un po' spettinate, non sempre con, non so, con il capello naturale, senza reggiseno, con la minigonna, con i peli non fatti, insomma, come ci pare e piace a noi. E fin qua. E fino a qua, cioè, non va benissimo. Io ma... ringrazio di avere i ricci, perché il mio must è non pettinarmi la mattina. Vabbè, anche io ho i capelli lisci, non c'è bisogno di pettinarli, perché tanto non si spettinano. Appunto, ognuna si piaccia e decida come piacersi. E dall'altra parte, appunto, c'era la rivendicazione di altre femministe che dicevano basta con queste gabbie. Cioè, se io mi voglio mettere invece il tacco e voglio mettermi lo smalto, alto, sono comunque tanto quanto femminista, sono tanto quanto, e appunto si rivendicano un'altra cosa, e va bene, fin qui va bene. Rivendichiamoci il nostro essere a 360 gradi. E sono state scritte dei post interessanti che invito tutti a leggere su il blog di Loredana Lipperini, che fa un po' il punto della situazione, ripresentando il post che dicevo prima di Femminismo a Sud, così come ripresenta il punto di vista di Lorella Zanardo, che Lorella Zanardo dice: ma cioè, alla fine a che ce frega come siamo vestite? Cioè noi, io ho un'amica che è super che va in giro con la gonna lunga a fiori, io, a me piace di più mettermi pettinata, bionda, con le unghie laccate, va bene così, accettiamoci. Un tempo molto lontano, ho fatto un commento alla Lipperini su Twitter, che l'ho fatto io, gli ho detto un tempo, cioè, vedete com'è tecnologica. Io sono molto tecnologica, sì, poi quando vado in fissa per le cose, quindi no, un tempo la chiamavamo autodeterminazione. Auto che? Autolavaggio? No, autodeterminazione, sì. Che è quasi uno scelesso, è come supercalifragilistichesti, si chiamava autodeterminazione, vuol dire che voglio decidere io del mio corpo, voglio decidere io che cosa voglio decidere io i miei desideri, ecco, questa era l'autodeterminazione. Oggi le chiamiamo un po' in tanti modi, vabbè, basta che ci capiamo, però il punto è sempre quello. Fondamentalmente si torna sempre lì. Sì, e mi dispiace un po' che bisogna tornare sempre lì, che siamo ancora su questo punto, sulla nostra necessità di autodeterminarci, ma va bene così. E continuiamo a scrivere, arriveremo prima o poi tutte insieme a autodeterminarci, ognuna con le proprie gonne o i pantaloni, insomma, con quello che vuole, con quello che preferisce. Sì, certo, il dibattito su questo tema è sempre molto interessante, perché poi uno si chiede, è sempre la domanda dell'uovo della gallina, sì, però ti vuoi mettere, vuoi mettere con me? Barretta sì, barretta no. Fai il... niente, non giochiamo, non divaghiamo. No, però ci si veste in un certo modo perché è quello che, diciamo, è socialmente più figo, accettato, o perché comunque un desiderio. L'importante, secondo me, fondamentalmente, come la questione dei peli, è la consapevolezza. Me li tolgo perché danno fastidio a me, non me li tolgo perché devo piacere a Tizio, Caio, Sempronio, o chi per lui o per lei. E anche lì vestiti un po' la stessa cosa, esatto. Beh, su questo Deal World sbaragliò a 180 gradi lo stereotipo della lesbica. Ma sì, basta questa lesbica brutta. Non è vero, le lesbiche possono essere col taccaspillo fighissime, potresti incontrarla nel metro e scambiarla per un eterosessuale, e invece no. Sono un po' come le femministe anche, cioè si travestono da esseri umani. Da raggi misti. Sì, sono queste cose. Si travestono da raggi misti. Sì. Anche sì, femministe e lesbiche in generale si travestono da esseri umani. Ma pensa a te, dai. Incredibile. Cioè, comunque sì, ognuno può andare vestito come gli pare. Quando questa più comoda, se più comoda. Quando questa più elegante, se più elegante. Certamente, appunto, non è l'abito che fa il monaco, vecchio detto. Che però invece sembra che è solo l'abito che fa il monaco. Anche perché, per esempio, la Lipperini, per esempio, citava una... trasmissione andata in onda una settimana fa, 10 giorni fa, in cui c'era la Camusso che era questa anche lì, lo so cosa dove vuoi arrivare tu adesso, aspetta. Un fantastico, e prima o poi nella nostra fantastica rubrica del sono tra noi, vabbè. Sono tra noi, però così appunto pure te stai lì a mettere fuoco sullo stereotipo, no? Magari era al contrario, dice. Chi lo sa? Cioè, vabbè, appunto, c'era la Camusso, un'altra deputata, forse del PDL, forse no, che diceva cose un po' banalotte, così. Strano. Super coi tacchi, super. Anche no. Anche basta. Cioè, basta. Cioè, infatti, Lorella Zanardo si rivendicava il suo tacco 12 e diceva le sue unghie laccate, e diceva: io mi sento molto femminista. Ma d'altra parte, la Stefanenko è sempre laureata in ingegneria meccanica. Appunto, perché l'abito non fa il monaco. Però, per esempio, la Lipperini, e poi qui chiudiamo un po' forse questo filone di come stereotipi, ma solo per oggi. Appunto, a noi ci piace parlare dell'immagine e tutto quanto. Parlava di un film che non so se degli anni 70, me lo confermerete, degli anni 70 o degli anni 80, che era un film che rappresentava le donne in quel momento, che era Jules. Non mi guardare così, non lo conosco. No, Jules. Oh, vabbè, un'ignoranza cinematografica mi pervade. Giulia. Ecco, era Giulia. Era Giulia di Fred Zinnemann, in cui c'è questa donna che è un intellettuale che vabbè, appunto, è un po' un personaggio che non ha quei modi femminili tanto cari alle donne degli anni 50 che potete rivedere oggi su Mad Men, quella serie televisiva. No, ecco, Giulia non era così. Però poi, tra l'altro, serie televisiva che è stata proprio nominata. Quale? Sempre dal ho letto un articolo di recente, sempre sul nostro odiato quotidiano Nazional Popolare, che parlava appunto di come si sia scatenato in America un dibattito su, anche qui, su questa rappresentazione femminile. Poi ci si chiede: ma questa nostalgia canaglia, come cantava qualcuno, per questo modello di donna che poi se lo sono inventato sempre loro, perché stereotipato era rappresentato da qualcuno che tendenzialmente non era poi la donna stessa. Perché c'è questa ansia, questa voglia, questo ritorno? Questo bisognerebbe tanto lo dice sempre la nostra compagna femminista Elisabetta, quella proprio della Virgola, che dice appunto: ci sta un desiderio a righettizzare la donna nei valori degli anni 50, sì, che per quanto questo... possano avere delle gonne meravigliose, dei completi fantastici, comunque è proprio la donna di casa. Però io devo spezzare anche una lancia a favore anche due di Mad Men, che almeno, non so, forse perché io ho questa visione dal filtro viola e che oramai fa sì che io tutte le cose che guardo le giudico con il mio filtro viola. Non ne parliamo, vabbè, ne parliamo per quello. No, tutti gli uomini che stanno all'interno di Mad Men, cioè a me appaiono super, ma penso anche agli altri, sono dei viscidoni terribili che sono proprio non ti può fare che simpatia invece le donne, oppure non ti può che scattare un'analisi, guarda come erano le donne negli anni 50, non vorrei essere così. non lo so, sì, non mi viene, non mi viene un processo di emulazione per quei un desiderio di riappropriazione di quei valori, almeno non a me, però non so, la televisione fa brutti scherzi. Comunque, il film che stavo dicendo prima era Giulia, che è del 77, però c'era una riflessione su come 11 anni dopo, invece, il film di riferimento sulle donne diventò Una donna in carriera, quello con Sigourney contro Melanie. Cioè, che appunto. I remember ancora. Ecco appunto come cambiano le cose. Filmone anni 80. Un filmonissimo anni 80. Cioè, i tutti cotonati. Sì. Oltretutto, le donne che si fanno guerra tra di loro. Le donne che si fanno guerra tra di loro. Però c'era. C'è. Come c'è il pantalone, la gonna, la minigonna. E vabbè, sono cose che succedono, ma io ho un'altra canzone fantastica. Abbiamo fatto una selezione musicale accurata, sì, dimmi. Cioè, perché vogliamo fare concorrenza alla Sisterhood, allora abbiamo cercato un po' di kick sparse. E cosa ci fai sentire, quindi? Allora vi faccio sentire un'altra cover, perché alle volte le donne le cantano meglio, comunque in maniera molto più suggestiva. Grande pezzo di grandissimo gruppo che sono i Radiohead. Adesso riconoscete qual è. When you were here before, can look in the eye, you're just like an angel. A un'ora di cronaca, Valeria ha indovinato. Me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know this. When I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong. Rompere questa atmosfera che tra l'altro abbiamo creato anche qui nello studio, con delle luci soffuse e un po' di ambiente, cantandovi Sei un mito. Vi canto Sei un mito. Perché questa è la nostra parentesi, la nostra rubrica. Sì, solo che noi siamo delle voracce, non abbiamo ancora fatto le sigle, quindi giustamente mi tocca le volte. Sei un mito. Sentirle così. Sei un mito. perché non vi rispiego nuovamente perché questo titolo di questa canzone, eh? Noi vi proponiamo il nostro mito, e il mito di oggi è Marie Curie, proprio una giovane donzella. Però ho trovato questo e mi è piaciuto per un sacco di motivi. Allora, addirittura Einstein, vabbè, ma il fatto che lo riconosca un uomo non è che mi interessi molto, ha definito Marie Curie come il miglior scienziato che io conosca. Marie Curie si chiamava Maria Sklodowska ed è nata nacque a Varsavia il 7 novembre del 1867. Qualche giorno fa, proprio il 7 novembre, Google gli aveva anche dedicato un... Come si chiama? Il coso, sì. Come si chiama il coso? Non mi viene. Si chiama il coso. Un googolino. Sì, non mi viene tutto il nome, mente, che non mi ricordo suo nome, in questo momento non mi viene, in cui c'era lei che studiava e stava lì a scrivere con le ampolle e cose varie. Marie Curie, sapete di quanto aveva il quoziente intellettivo? Non che bisogna avere un quoziente intellettivo per dimostrare la propria intelligenza al mondo, perché cioè, può essere anche abili in altre cose che non siano la matematica e la logica. Però vabbè, lei ci aveva 200. Infatti, che buttalo via. Cioè, buttalo via. Meglio avercelo che non avercelo. Poi un'altra cosa carina di Marie Curie, vabbè. No, la cosa più carina di tutte è che lei è stata la prima... Ah, sì. Allora, chi è che ha inventato il Creative Commons? Chi l'ha inventato? Secondo noi lei. Secondo noi lei, perché Marie Curie... Di tutte le sue scoperte di che tutte fece... le sue scoperte, non ne ha brevettata neanche una. Perché? Che cos'è che ha scoperto principalmente? Beh, la radioattività. Che non è una bella cosa, una bella cosa, però... Prima o poi l'avrebbe scoperta in ogni caso. E ha detto no, perché deve essere patrimonio comune dell'umanità. Ragazzi, esatto. Cioè, stavamo nel 1800 avanti, blau proprio, Marie, e lei già diceva queste cose e soprattutto le metteva in pratica, altro che Creative Commons. Altro che poi hanno brevettato tutto, poi tutto anche pure a lei hanno brevettato a un certo punto. E vabbè, quando si è sposata con Pierre Curie, invece delle fedi nuziali si sono scambiate due biciclette, quindi sono anche pensavo due la radioattività sì. No, antecedenti della fisica al nel 1800 quello era il mezzo più diffuso, la bicicletta. Vabbè, vabbè. E se ecco poi Marie Curie e la figlia, che anche lei ha vinto il Nobel, la figlia di Marie Curie, allora, a parte che Marie Curie ne ha 22, la figlia 1, quindi proprio in famiglia ne sono rimaste 3, tre Nobel per la radioattività. E purtroppo Marie Curie e la figlia e anche il loro assistente sono morti di leucemia, mentre Pierre Curie è morto perché è stato investito da una carrozza. Che a sto punto uno dice vabbè. Vabbè, volevo dire questa cosa che faceva un po' colore nel nostro sei un mito. Sei, senti come lo dico canticchiando. Appunto ha vinto due Nobel, uno in coppia con il marito, l'altro da sola per la chimica, perché appunto non è che si occupava solamente di radioattività, ma anche di chimica. E poi vabbè, ebbe un amante che si chiamava Langevin, ebbe questa storia con un fisico. E quindi una donna proprio veramente alternativa, una donna veramente alternativa. Ah. Sei un mito, Marie Curie. Sollevare le borse della spesa con le mani, poi cercare la macchina al parcheggio tra i fanali. Cellulare forse si è spento mentre cercavo le chiavi. Nelle tasche c'è sempre qualcosa che non ricordavi. Palazzi, ora mi vogliono abbracciare. Stralunata, ancora una volta mi metto a fotografare. Giapponese, io mi sento solo giapponese, giapponese, giapponese. I semafori sanno che sono in ritardo. scoppia un temporale. Ho un sospetto, forse stanotte c'è il lavaggio strade. Elefanti, i SUV della tangenziale. Come fare per raggiungerti senza farmi esasperare? Come ti senti? È passato il peggio. Voglio spiegarti l'arte d'arrivare a fine mese. Io mi sento giapponese, giapponese, giapponese. I semafori sanno che sto arrivando. Questa era Cristina Donà dal suo ultimo disco, Tornando a casa. Il titolo della canzone, così a intuito potreste averlo capito, ma era giapponese. L'arte di arrivare a fine mese. E a proposito di cantautrici, Cristina Donà non se la fila molto lo Star System, però è una cantautrice molto molto molto brava, che sarà il suo ormai sesto disco, credo. Comunque molto caruccia, caruccia, sì, molto caruccia, ci piace, a me piace tanto, io l'ho pure vista dal vivo, così per fare un po' di... Per tirartela un per po'. Per tirarmela a 5 minuti. Ma ho visto dal vivo pure la nostra Gianna Nazionale, che dopo un po' di mesi che non sapevamo più nulla, ci stavamo anche preoccupando che la maternità l'avesse risucchiata in un vortice senza fine, invece no, eccola di nuovo qui. E con una frase che secondo me in qualche modo è un attimino un po' ambigua, anche se tutta l'operazione pare essere volta a uno di questi progetti veramente interessanti. Però il vero amore quasi mai lascia i lividi, io direi mai senza quasi. Poi non so se per la metrica della canzone ha avuto bisogno di scrivere il quasi. Ce n'è... Vabbè, glielo posso... Gianna, chiamaci ogni tanto che vorremmo farti sempre delle domande. Poi tu non ci sei mai, non riusciamo mai a fartele. Comunque partirà e ovviamente noi ve ne daremo notizie. Non vi preoccupate, perché lo sapete che il nostro, lo Star System, i media e quello che rappresentano delle donne ci interessa sempre moltissimo. Partirà a gennaio sulla Rai una miniserie sulla violenza contro le donne. Poi guarda caso, a novembre tutti quanti si risvegliano su questo tema, quando poi tutto l'anno le donne vengono uccise dagli uomini, possibilmente compagni, mariti e amanti, ex amanti. Che possibilmente solitamente. Solitamente, beh, anche qui è un problema di avverbi stasera, solitamente appunto, scusate. Da compagni, mariti e amanti nessuno se le fila. E invece intorno al 25 novembre, questa appunto giornata mondiale contro la violenza alle donne, cominciano a uscire progetti, non mica progetti, libri, non libri. E insomma, la Gianna ha prodotto, ha scritto la sigla di questa miniserie televisiva, da cui appunto uno dei versi recita: il vero amore quasi mai lascia i lividi. Non li dovrebbe, perché quasi mai, mai, punto, senza quasi. E vabbè, cose che succedono. Gianna, chiamaci, perché stiamo sempre aspettando il tuo, il tuo outing, finalmente, anche quello su carattere nazionale ci farebbe benissimo, ma voi come al solito non lo volete fare. Vale. Mi si è bloccata la socia. No, la socia sta leggendo una perché cosa... Perché quella è social, sta nei media. Vi ricordiamo, tra l'altro, che noi siamo talmente pop che insieme al martedì comunque abbiamo la nostra pagina su uno dei social network. FB. che si chiama Spirito di Patata. Dite che vi piace, perché lo sappiamo che vi piace, quindi ditelo. Perché non lo volete dire? Ditelo, non volete dire? Potete fare anche qualche squillo allo 06 49 17 50, e se volete potete anche che noi, invece di fare lo squillo, noi rispondiamo al telefono, voi cantate e vi mandiamo in diretta. E poi ricordatevi, vi regaliamo una caramella. E ricordatevi che potete scrivere a mfla@ondarossa.info e mettere in oggetto: voglio fare da spalla a Spirito di Patata. Sempre perché io voglio licenziare Claudia. Stavolta sono stata distratta io. No, stavo guardando un blog che sta su, che è un blog di una rubrica di GQ.com. Ah, lo sai già di cosa sto per parlare? No, della rivista. No, non della rivista. Sto per parlare di questa cosa che sta su GQ Italia e si chiama Me Parlare Donna. Okay, Parlare Donna è scritto da Giulia Blasi e di solito i suoi post si intitola Cosa avrà voluto dire, e c'hanno vari numeri, numero 64, numero 65, e sono delle ipotetiche discussioni, fraseggi tra un uomo e una donna. Allora, se per esempio Me Parlare Donna, cosa dice lui? È difficile trovare una persona di cui non ci si stufa. Cosa capisce lei? Non credo nell'amore. Oddio, ancora con questo trip. Questo trip, sì, del parliamo in se capimo. Dai, ma c'è una retorica. Ma non è che succede solo tra uomini e donne, solo all'interno delle relazioni, diciamo, di coppia. C'è un sacco di gente che non si capisce nel mondo. Però, guardate, qualcuno dice... facciamo le guerre. No, pensiamo, infatti, non ci capiamo. Succede anche tra donna a donna, uomo a uomo, uomo a donna, non lo so. Questa è carina, dice, cosa dice lei? Sto malissimo! Cosa capisce lui? Ho un aspetto poco gradevole. Sì, beata te il narcisista che si dice questa cosa. No, cioè... cosa capisce lui? Cioè, lui capisce che lei si pensa di avere un aspetto poco gradevole. Ah, ecco, no, che lui, c'ha una figura di... Traduzione, mi sento in dovere di sminuirmi, ma sei invitato a farmi dei caldissimi complimenti. Poi lei mette anche il contesto e l'etimologia, te lo spiega tutto. Sono parecchi, è già arrivata al numero 68, quindi vuol dire che... E poi la gente non lavora, dico io. Mannaggia. Però esempio, cosa dice lui è più carino di solito, perché lui, cosa dice lui? È comodo. Cosa capisce lei? Sono affezionato a questo orrendo straccio sfilacciato e zozzo, non si azzardare a buttarlo. Cosa voleva dire lui? Questo è sempre lo... è comodo. vabbè, questa è la storia che noi ci facciamo tanti tanti film, tanti film. Poi non si capisce perché sempre prendiamo così pochi premi agli Oscar e le nostre sceneggiature non sfondano il tetto di cristallo, perché siamo delle, a quanto ci dicono, per come ci rappresentano, dovremmo essere delle grandi filmmaker, quantomeno dovremmo scrivere delle sceneggiature infinite. Senti, abbiamo ascoltato un sacco di buona musica ieri, addirittura non ci è dormito per prepararci questa playlist. Adesso. Dai, esageriamo, loro non lo sanno. Tanto esageriamo tutti in questo. Esageriamo. E che ci fai sentire? Ma io mi butterei su uno scherzetto. Dai. Che sono gli Stereolab. Siete fantastiche quando intervenite, mannaggia che non lo fate, che non mi fate da suggeritrici. Ho bisogno del gobbo, volete fare da gobbe? Venite qua, voglio essere la spalla, voglio fare la gobba. Sì, perché Luisa ci suggerisce che è un Google Doodle. Che prendersi una camomilla. Io sì, però mai, tutti pensano che sto fuori di capoccia. Pensano però. Luisa ci dice che si chiama Google Doodle. che non è il dildo. È il Google Doodle. E si chiama così. Inventa for you questo. Meno male che chi ci ascolta ci salva, ma... Sembra di stare in un telefilm degli anni 60, quelli, yeah! Tipo anche sotto qualche effetto stupefacente. Comunque noi invitiamo sempre le nostre ascoltatrici a tirare la spirito di patata fuori che c'è in loro e mandateci suggerimenti, idee, cose, battute. Barzellette. Oppure il vostro blog che sia un po' simpatico, no? C'è ecco, adesso io vi leggo sempre su Me Parlare Donna. Comunque questa cosa non si... Dai, magari no, io già in tutarda. Me Parlare Donna, sì, Me Parlare Donna, così si dovrebbe leggere. Allora, certo, questo... così mettiamoci pure il razzismo, hanno fatto tombola, tombola! No, questo qua si intitola Lesbiche, perché no, cioè no, così. Perché? Perché si titola così? Ma la reazione va a catena così. Sì, sì, è un molto libidinoso. Perché un po' fantoziano, diciamo. Bravo, un po' fantoziano, perché appunto si tratta di comunicazione uomo-donna, si sa che, non so, a un uomo gli dici tu lesbiche, oh, dai. Così, spesso non c'è il rispetto che è dovuto. Spesso, oggi è un problema di avverbi, non c'è mai. Ecco, yeah. E scrive, perché gli uomini si eccitano tanto con le lesbiche? Non si sa. Non si sa. Vabbè, lei ha voluto lasciare un po'. Mica si eccitano uguale con i gay. A meno che non siano gay loro stessi. E perché quelli fa venire l'ansia cosmica che infatti pure loro potrebbero, e quindi comincia a prendere delle palpitazioni, quindi non si riescono. E infatti dice, una crisi mista. La maggior parte degli uomini eterosessuali non ama guardare il porno gay, mentre il porno lesbico, anche solo a nominarlo, strappa loro mugoli di approvazione. Ma qualcuno gliel'ha spiegato perché è facile. E infatti lei dice, può essere molto irritante, soprattutto per le lesbiche. Ah. Ma è così sensibile, Giussi? Sì, è sensibile. Vabbè, sempre qua su... Addirittura dicono, non fa ridere. Parliamo di L-Word, lo guardavano solo le lesbiche. Infatti troppe parole, troppa trama, troppo dramma per risultare interessante al genere maschile. Questa cosa mi fa molto ridere. Che poi non è vero, perché penso un po', le lesbiche gli hanno fatto l'accusa contraria. Che c'era troppo sesso per gli uomini. Pensa a te. Vedi, il mondo è bello perché è vario. È una puntata così delle cose già note. delle cose già note, sì. Quindi già riassumendo, detto. Gli uomini, poi vi sto tagliando, gli uomini si eccitano all'idea di una coppia lesbica a condizione che siano buone, silenziose e disponibili a fare un'eccezione per lui. Comunque lei copia e incolla su internet per fare queste riflessioni, eh? Eh sì, vabbè, non è che... Non è, però vabbè, sul fatto che sia su GQ, che comunque GQ Italia è veramente... Vabbè. Non è a un altissimo livello, quindi lo diciamo, è proprio bassino, è che ci sia una riflessione così, dai, ma che prendi e porta a casa, su. Sì. Perché questo passa il convento. Perché questo è anche perché la 27esima ora, per esempio, adesso no, di nuovo, no, bugia, no, non si può neanche più nominare. Cioè, qualcosa di. No, infatti, quel blog ha avuto. È scaduto. Come il latte. E questa cosa che mi fa. Poi, a parte è scaduto il blog, e poi è veramente infestato. Conservatore. Sì, ma è veramente infestato da stalker, da uomini che odiano le donne, da gente che fa proprio pure quello branco del Corriere. Sì, pure quello del Corriere. Tant'è che un uomo ha scritto un post questo 2-3 giorni fa, perché io dico che è illeggibile, però alla fine io ho questa cosa morbosa di dover leggere tutto. Comunque, vabbè, io pure leggo la pubblicità. Commenti compresi, e c'era questo quello è ostico, leggere i commenti, infatti per questo ti dico che è diventato illeggibile anche per la presenza e il subissare di insulti di questi uomini che odiano le donne, che appunto c'era questo posto di un uomo che diceva che raccontava di quello che succede nella realtà, che vengono copiati, clonati dei blog di donne, di femministe con lo stesso nome, con i titoli degli stessi post che però vengono traslati in maniera antifemminista, antidonna. Questo succede su gli account di Twitter, di Facebook, ma anche proprio vengono copiati i siti, cioè c'è gente che si mette a copiare il sito e a traslare le argomentazioni delle donne che scrivono. E sì, bisogna essere molto attente. Tra l'altro, io per esempio su una pagina c'ero finita, ecco. Una pagina sì, clonata, sì, del social network, sempre quello lì. E poi vabbè, poi ti rendi conto dalle tematiche, vedi due post e capisci che stai su un fake, però. Però appunto, quando si tratta del fake su un social network, pure, ma quando si tratta che se prendono un dominio e lo copiano e copiano i post, a me mi sembra proprio non è più essere troll, è proprio uno stalking, è proprio una persecuzione. E appunto, questo uomo parlava di questa cosa e altri insulti da parte di uomini dicendo ah, stai dalle parti di loro, ah, io mi chiamami pure troll, ma io i valori, poi i valori di questo maschio italiano fantastici proprio. Se è il trittico lo conosciamo bene, che se su 56 commenti tutti, non so, 50 erano contro questo post, a sto punto o chiudi oppure No, secondo me è una questione molto difficile gestire i commenti di un blog, ma si vede tante dei blog che consultiamo hanno di questi problemi, la Lipperini, Femminismo a Sud, anche perché secondo me su questa cosa il web tira veramente fuori il maniacale che c'è in alcune persone, per cui ci si mettono cioè stanno sempre lì, sembra che non hanno altro scopo nella vita che stare a vedere quello che fai tu e comunque stressarti. Una cosa molto pesante, tra l'altro sì, perché poi il web sembra molto amplificato su questo, che tira fuori, diciamo, una componente abbastanza esasperata dei comportamenti che poi solitamente, sicuramente, queste persone hanno anche quando camminano per strada, e quindi la gestione diventa complicata, che è poi il motivo per cui tantissime fanno rete, provano a scambiarsi le informazioni anche su questi fake, sui troll, danno sempre l'advertise quando appunto c'è occhio, c'è un fake, occhio, questo sito è stato clonato, a me arrivano spesso queste notizie. Poi il motivo per cui probabilmente anche al Femblog Camp avranno parlato di questa cosa, di come gestirla, di come in qualche modo tutelarsi e tutelare poi tutte le persone che appunto leggono questi blog, sapendo e hanno, diciamo, un accordo di fiducia nella lettura, perché appunto sono persone che magari seguono, di cui si fidano e che vengono appunto clonate da persone che non hanno un cavolo da fare nella... E un po' per scherzo, un po' no. Per forza o per amore. Indovinate di chi era questo disco, che vi regaliamo una... No, è nato una pagina Facebook che ironicamente si intitola Stima per sessisti che perdono ore a scrivere improbabili blog. E... Anche perché poi alla terza argomentazione li sgami, dice vabbè, senti, a biondo. Sì, a biondo. Dai, su. Che dobbiamo fare? Senti, la nostra... Noi abbiamo parlato di All World, c'è qualcuna che ci ascolta e che ci manda delle interessanti suggerimenti. Dice, vabbè, vado a ruota libera, ma quale All World? Avete visto il film svedese Kiss Mig? Bello bello. Ah, no. No, vedi, non l'abbiamo visto. Adesso lo segnaliamo pubblicamente che non l'abbiamo visto e che magari ce lo vediamo. Certo, come Kiss no. Mig. Ottimo, vedi. E adesso ci ascoltiamo, vediamo un po'. Kenny Arcana, però con una canzone diversa. Dalla Rage. La Rage. Che la sentiamo sempre. La Rage. Matra che flingue, les hyènes sont de sortie. Tolérance zéro, les cartes se remplissent. T'as pas de faf, t'as du shit, t'as les planquez-vous. T'as pas de taf, t'as du bif, t'as les planquez-vous. Dur charbonneur ou vendeur à la sévère, t'as les planquez-vous. Guetteur en scout ou marchand de fumée, t'as les planquez-vous. Pas de carte de séjour, t'as les planquez-vous. Tu traînes en bas tous les jours, t'as les planquez-vous. T'as les planquez-vous, t'as les planquez-vous, t'as les. Questa era Kenny Arcana con Plaque V, come diceva la canzone stessa. La puntata numero ce le contate, ragazzi, contatecele, fateci sto aiutateci, vi prego. Contateci le puntate. Vi ricordiamo che il martedì non finisce qui, anzi, è praticamente quasi solo iniziato. Proseguiremo con Attimi Sfatti e poi a seguire la virgola, il GR, Mini Pimer, per poi chiudere, no, che okay, il terzo orgasmo e poi per chiudere con le Sisterhood. Noi siamo solo, diciamo, l'antepasto del martedì e ci rivediamo fra due martedì, sempre questo martedì che torna, secondo me, c'è solo un'analisi delle parole, martedì 450 volte. Potete chiamarci allo 0649 1750, a noi potete cercarci o sui social network o via posta mfla@ondarossa.info o sul nostro blog mfla.noblogs.org. Che radioascoltatori e radioascoltatrici, è veramente aggiornato il nostro blog, cioè ci sono, sì, i podcast, ci siamo di tutto. Messe di buona lena, quindi quasi a mercoledì, giovedì trovate più o meno quasi tutto il palinsesto riprodotto in podcast, che potete ascoltare appunto singolarmente con le singole puntate, cioè